175. Fritto composto alla bolognese. A questo fritto si potrebbe più propriamente dare il nome di crocchette fini. Prendete un pezzo di magro, di vitella di latte stracottata, un piccolo cervello lessato o cotto nel sugo e una fettina di prosciutto grasso e magro. Tritate ogni cosa con la lunetta. E poi pestatela ben fine nel mortaio. Dopo aggiungete un rosso d'uovo o un uovo intero, secondo la quantità, e un poco di balsamella numero 137. Mettete il composto al fuoco, rimestando sempre. Lasciate che l'uovo si cuocia. Aggiungete per ultimo parmigiano grattato, l'odore della noce moscata, dei tartufi tritati finissimi e versatelo in un piatto. Quando sarà ben ghiaccio, fatene tante pallottole rotonde della grossezza di una piccola noce e infarinatele. Poi mettetele nell'uovo e dopo nel pan grattato finissimo, ripetendo per due volte l'operazione e friggetele.